Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Italia sotto la media dell'Eurozona per il costo del lavoro, 27,4 euro l'ora contro un livello medio di 28 euro l'ora nell'Eurozona. Pesante però l'impatto di tasse e contributi, tra i più alti del vecchio continente. I timori espressi dall'Unione Europea sulla tenuta del sistema industriale italiano sono esagerati. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, risponde all'analisi di Bruxelles presentata ieri. È un giudizio che non condivido, ha detto questa mattina a Radio Anch'io. Credo che da Bruxelles ci sia una prevenzione nei nostri confronti. Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, risponde su questo punto dal Salone del Mobile di Milano. Il tessuto industriale mi pare l'elemento di massima garanzia che ha l'Italia. C'è un problema che riguarda il debito, la necessità di avviare una serie di riforme nel settore della giustizia, nel settore fiscale, perché è eccessiva la pressione fiscale nei confronti delle imprese. Serve ridurre anche il fardello burocratico. Non è un'analisi allarmistica quella della Commissione europea, però chiaramente è un messaggio che viene inviato all'Italia perché si risolvano alcuni problemi, si continui il percorso delle riforme e perché si dia all'Italia in tempi rapidi un governo capace di avviare queste riforme. L'Austria negozierà la revoca del segreto bancario per gli stranieri titolari di un conto nel suo territorio, cedendo così alle pressioni dell'Unione. Lo ha annunciato il cancelliere Werner Faymann, che ha però aggiunto: il segreto bancario, che figura nella Costituzione, dovrà essere mantenuto per gli austriaci. Vienna era rimasta isolata dopo la decisione del Lussemburgo di ridurre il segreto nel Granducato. Enrico Brivio ci spiega perché. Per chi segue le vicende finanziarie europee, l'addio del Lussemburgo all'integrità del segreto bancario dal gennaio 2015 è una svolta quasi epocale. Il premier del Granducato ed ex presidente dell'Eurogruppo, l'europeista DOC Jean-Claude Juncker, per oltre un decennio nei negoziati europei aveva in realtà difeso un suo interesse nazionale, la proverbiale riservatezza delle banche lussemburghesi. Ma ora ha dovuto capitolare. Il nostro settore finanziario non dipende interamente dal segreto bancario, ha precisato ora Juncker. Non dovremo spegnere la luce. Dietro di lui un settore finanziario nazionale di dimensioni equivalenti a 20 volte il PIL del piccolo Granducato di 500.000 abitanti, che ospita 141 banche di 26 stati, con risparmi per oltre il 50% di cittadini di altri paesi europei. Le ragioni del cambio di rotta? In tempi di feroce crisi e di bilanci nazionali austeri, si è fatta asfissiante la pressione degli Stati Uniti e dei grandi paesi europei su Lussemburgo, Svizzera e ogni altro Stato che si presti, con l'opacità del suo sistema bancario, ad agevolare l'evasione fiscale dei grandi investitori internazionali. Gli americani non ci lasciano scelta, ha ammesso Juncker. Accettano di fare business finanziario solo con i paesi che praticano lo scambio automatico di informazioni. L'annuncio poi di Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna di voler lavorare a una piattaforma multilaterale di scambio di informazioni ha aggiunto pressione a pressione. E poi c'è stata la crisi di Cipro e la crescente consapevolezza nell'Eurozona che un settore bancario ipertrofico è comunque un fattore di malsana fragilità. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare la campagna che la Commissione europea ha lanciato in difesa dei diritti dei viaggiatori. Imbarco negato, cancellazione, lunghi ritardi, bagaglio smarrito, bisogno di assistenza. I diritti di chi si muove in pullman, in treno, in aereo, in nave sono tutti a portata di mano e conoscerli prima di partire è fondamentale per poterli esercitare qualora qualche problema dovesse verificarsi durante il periodo all'estero. Proprio per questo la Commissione ha realizzato un apposito sito di facile lettura con le indicazioni pratiche per tutte le evenienze e un'applicazione per smartphone dal titolo I tuoi diritti di passeggero, scaricabile gratuitamente dal sito ec.europa.eu. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.